Perciò dico, secondo me il discorso del tecno, cioè, può essere, chiudo, può essere pure un mezzo. Però secondo me, al di là dell'obiettivo che uno si dà, che se, dal mio punto di vista la lotta non è per non far fare la trivellazione. Cioè la lotta non è per dare la... Vabbè, già se ci si riesce non è Sì, male. però non, cioè, Anche perché il non è sistema quello, non poi si basta stanca. quello. Il Cioè, non sistema è, e si soprattutto stanca. la lotta non è per dare una soluzione, Il perché io sistema la molto soluzione non ce spesso l'ho. lo sposta altrove, nei Quello che paesi c'è del... attorno, Sì, io la soluzione però non ce l'ho. il problema è di Capiti tutte noi, capiti noi. le altre comunità. Se tutte le altre comunità si oppongono ad un determinato progetto, poi il sistema va in tilt. Cioè, questo è il discorso. Il discorso è che se tutte le comunità, se noi diamo l'esempio e facciamo con i nostri mezzi, tutti i mezzi, giustamente il tecnico non è sufficiente, c'è anche una questione, come giustamente si dice, le multinazionali, noi abbiamo impostato il discorso anche sulle questioni delle multinazionali. Multinazionali a Taranto hanno comprato Taranto, si sono impossessate di Taranto. Ok, io parlo di Taranto perché io vivo a Taranto, vedo quello che accade, così come loro vedono quello che accade nel loro territorio. Ma se tutte le comunità facessero quello che facciamo noi sul nostro territorio con i nostri mezzi, il sistema si blocca. Allora, il sistema viene dalle comunità che a livello locale fanno tutto quello che possono sotto l'aspetto di progettualità, sotto l'aspetto del tecnico che dice ad un altro tecnico: guarda che queste questioni vanno sollevate. Vi posso assicurare che se tu hai dei mezzi potenti per poter contrastare il tecnico, l'economista o il, non lo so, qualunque altra persona, affrontando il problema, giornalisti, affrontando il problema a 360 gradi, ed ogni comunità lo fa, così si blocca il sistema. Ma se noi da Taranto cominciamo a dire il sistema è il problema, perché lo sappiamo che il sistema è il problema, noi siamo venuti qua con la macchina e stiamo facendo la battaglia contro il petrolio, voglio dire. È un controsenso, ma il sistema ci obbliga e ci impone ad usare la macchina. Ma come si blocca il sistema? Innanzitutto bloccando quelle multinazionali che sui singoli territori vogliono imporci il loro profitto. Se noi non riusciamo a capire questo, che sono le singole comunità sul territorio che con tutti i loro mezzi devono lottare, una battaglia che viene da una città o da un paese contro il sistema non ha alcun risultato. Perché noi qua lo stiamo dimostrando, siamo le singole comunità che magari io ho avuto la vittoria contro la centrale Enipower, ma se permetti ho lottato contro il sistema perché Enipower voleva vendere quell'eccesso di energia nel resto dell'Italia. Enipower se n'è uscito da Taranto e la mia vittoria è stata contro quel sistema che voleva che Enipower sfruttasse Taranto per il proprio profitto. Con cosa? Con le mie competenze tecniche, ce l'ho fatta con le mie competenze tecniche, così come io sono andata davanti al Consiglio Comunale, mentre c'erano i miei colleghi, tra virgolette, come si chiamano, ambientalisti, perché io non mi definisco ambientalisti, erano lì con le sagome di cartone a fare la manifestazione, io me li sono guardati in faccia e ho detto: ragazzi, voi fate la manifestazione con le sagome di cartone? Venite, c'erano Confindustria, c'erano tutti i sindacati lì, ho simulato un corpo a corpo. Contro gli agenti della polizia che erano lì. Il risultato è stato che poi hanno sentito i politici la pressione delle persone. Guardate, ho inscenato un corpo a corpo. C'erano gli amici, tra virgolette, della Digos che tutte le mattine mi chiamano. C'erano gli amici della Digos che mi hanno detto: guarda che tu hai rischiato la rissa. Hai rischiato la rissa. E io ho detto: guardi, che se il risultato è stato far scendere il sindaco e farci entrare, perché volevano fare la riunione tra di loro, no? Confindustria e vari sindacati per discutere di cosa? Del futuro di una città in cui viviamo. Tra l'altro, io non sono neanche proprio tarantina del posto. E allora, se tutte le comunità fanno questo, così si blocca il sistema. Perché io ogni volta che vado a mettere il carburante in quella cazzo di macchina, io mi sento in colpa. Perché dico: io faccio la battaglia contro il petrolio, però intanto sono costretta a venire in questo cazzo di posto con la mia autovettura. E non vorrei venire qua con la mia autovettura. E voi tutti qua siete venuti con la vostra autovettura e magari non con un'autovettura. E magari usate pure il gas per cucinare. Classico, usate pure io il l'accendo gas. con le E pietre, mi bravo, faccio il fuoco bravo, in casa, mi faccio bravo. il salotto. Cioè, guarda, allora la questione è che nessuno sta parlando direttamente a te, qua è un discorso aperto a 50 persone, tu stai personalizzando come se uno ti stesse attaccando. Quanti sta attaccando nessuno? Sicuramente la questione tecnica è uno dei 360 gradi di tutte le questioni, perché le questioni le affronti sempre a 360 gradi. Tu sarai tecnica e fai la questione tecnica, però purtroppo qua ci stanno altri 50 che di tecnico ci avevamo proprio pochissimi. Ok, quindi. Partendo da questo discorso, la questione. Scusami. Cioè, a me mi sono piaciute un sacco loro come hanno iniziato, perché senti parlare di una lotta locale e partendo come presupposto l'ha messa in discussione del sistema più là della lotta locale, perché loro stanno dicendo se non ci risolviamo la nostra lotta locale si sposta là, se no si sposta là, se no si sposterà pure in Sicilia, che sa paro mettono sto fatto, no? Dovrà passare per la Grecia, che infatti io vi volevo chiedere in Grecia come rispondono a questa cosa, proprio rispetto alla munnizza, no? La munnizza, cioè ti danno delle false soluzioni facendoti pure senti in colpa. Cioè, noi ci abbiamo piate multe perché buttavamo la munnezza fuori dall'orario perché eri affaticato. E se la buttavo quando andavo a lavorare o quando uscivo di casa mi facevano 70 euro di multa, quindi un potevi ta munnezza. Il problema sono io, quello che diceva lui, cioè la munnezza non la produco io in casa mia, io personalmente provo a produrne il meno possibile, ma porto un bicchiere da casa se posso, no? Ok? E non io devo risolvere il problema, l'industria che inquina, mi fanno i cosi per consumare meno acqua, mi fanno fare paranoie, e qua non consuma l'acqua, ma hai capito? Può fare una miniera, può fare due scavi, quanta cazzo di acqua, migliaia e migliaia di litri, e tu ti fai un problema da goccina d'acqua e ti cade alla bottiglia, o chiudi quel rubinetto, come se cioè, la colpa fosse a me che finisce l'acqua in coppa faccia la terra, o fosse a me che mangiamo la zuzzimma, perché generazioni prima hanno fatto sotterrare la zuzzimma e nessuno vedeva niente. Ok, quindi prima di tutto usci da questa dinamica di come che non mi viene la parola però martellamento sui coglioni, cioè perché già stiamo inguaiati, se ci stiamo pure a martellare i coglioni sti cazzi, capire come uscire da sta dinamica e provare a 360 gradi, può essere il tecnico, può essere il presidio nel paesino a provare in vita a tutti quanti, però al mero momento di fare le cose ci stanno solo quelle scarfate di testa che mettono in dubbio il sistema. Non il gasdotto, la TAB solo in Valsusa, perché hanno costruito in tutta Italia prima di metterli in dubbio, e tutta una serie di cose, no? O mostro ci hanno avuto i salantenne più grandi del paesino, no? E quindi cioè, per andare più in là del discorso è la questione di creare legami fra posti, capire che il problema non è locale e ci sono un botto di lotte territoriali che qui si stanno incontrando.